Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a Focus Economia. Oggi indegnamente in sostituzione di Sebastiano Barisoni, che torna presto. Di cosa parleremo oggi? Beh, insomma, in parte ve l'abbiamo anticipato già nel giornale radio, ve l'ha anticipato Gigi Donelli. Naturalmente parleremo della vicenda di Piombino, l'ultima notizia, l'avete sentita nel GR, che alle 18 a Palazzo Chigi ci sarà la firma dell'accordo di programma che disciplina gli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino. Come sapete, come vi abbiamo raccontato, l'alto forno dell'acciaieria Lucchini di Piombino è stato messo sostanzialmente in stand-by, si usa questo termine evocativo, addormentato, non è propriamente spento, però insomma naturalmente c'è grande preoccupazione, soprattutto da parte degli operai, 1500 operai coinvolti, senza contare tutti quelli dell'indotto, ma più in generale vogliamo affrontare il tema della situazione della siderurgia italiana, perché poi noi l'abbiamo un po' lasciata da parte negli ultimi mesi, ma ricordiamoci che l'Ilva di Taranto in questo momento sta lavorando a meno della metà del suo potenziale. E tra l'altro l'anno scorso era stato, poi c'è stato un cambio di governo naturalmente, era stata annunciata la creazione di un tavolo italiano, un tavolo di crisi per l'acciaio, per la siderurgia. Vorremmo anche capire che fine ha fatto. Sarà questo il nostro tema di apertura. Tra le altre cose delle quali parleremo, non potremo ignorare il decreto IRPEF e ci ritorneremo. Il Sole 24 Ore lo fa oggi e domani arriva la guida pratica al decreto Renzi, sempre col Sole 24 Ore. Però quello che vogliamo capire adesso è, visto che solo il 44% di questo bonus da 80 euro è coperto da tagli di spesa, da dove ci esce quel 56%? Tra le altre cose esce per esempio dai conti correnti, perché tassazione sulle rendite finanziarie, però è anche una tassazione sui conti correnti, insomma, vale circa 750 milioni, insomma, se sono rendite finanziarie quelle. Ditemelo voi, ne parleremo con i colleghi del Sole 24 Ore, naturalmente che su questo sanno molto più di noi. La borsa oggi va bene, anche se è peggiorata rispetto a come era metà giornata. FTSE MIB più 0,3%, FTSE All Share più 0,27%, negativa anche il resto d'Europa, negativa Francoforte che c'è dello 0,15%, Parigi guadagna lo 0,3%, Londra lo 0,11%, quindi non un granché a dire il vero. Positivi sul listino Saipem che guadagna il 3,27%, Banco Popolare più 2,91%, CNH più 2,4%, anche le popolari che recuperano qualcosa dopo aver perso nei giorni scorsi, meno 1,68% la Popolare Emilia Romagna, meno 1,5% la Popolare di Milano, in negativo Azimut che cede l'1,73%, Fiat 1,5%, Mediaset l'1,42%, Buzzi Unicem l'1,07%, ma naturalmente su tutto questo torna. Intanto le notizie in breve. Naturalmente non vi ho detto qual è il numero per intervenire in diretta via SMS, il 349-238-6666, volendomi potete anche scrivere su Twitter, mi trovate Simone Spezia, ma già lo sapete perché vedo che già i messaggi arrivano. C'è chi scrive che il tavolo sulla siderurgia era di noce e se lo sono fregato. No, vabbè, dai. Le materie prime, innanzitutto, come sempre, Brent in rialzo dello 0,67% a $109,8 al barile, WTI, quello quotato a New York con consegna a giugno, più 0,49% a $101,9 al barile. in risalita anche l'oro dello 0,7% a $1,294 l'once. Ci sono le parole di Mario Draghi oggi. A dir la verità, non nuovissime, col solito linguaggio che, insomma, se ne parlava poco fa con Mauro Dal Corno, che adesso è dall'altra parte del vetro, il banco centralese. Il banco centralese ci dice oggi che assistiamo ad un peggioramento delle prospettive di inflazione nel medio termine, che richiederebbe un più ampio programma di acquisti di attività. Le agenzie traducono nel titolo acquisti di titoli se peggiora lo scenario dei prezzi. Il consiglio direttivo della BCE si attiverà a salvaguardia della stabilità dei prezzi, sia rispetto alle spinte inflazionistiche, che al momento non ci sembrano esistere, che deflazionistiche. La giunta è mia, sulle spinte inflazionistiche, non di Draghi. E poi al malfunzionamento dei mercati del credito bancario, la Banca Centrale Europea potrebbe adeguatamente rispondere con un'operazione di rifinanziamento a più lungo termine mirata, oppure attraverso un programma di acquisti di attività cartolarizzate. Così Draghi, che tra l'altro è tornato oggi, dato che lo speech in realtà era sul tema della trasparenza da parte delle banche centrali, a proposito di linguaggi, sul fatto che si sta discutendo della possibilità di pubblicare, esattamente come fa la Federal Reserve, di pubblicare dei resoconti delle riunioni del consiglio direttivo della BCE, per avere un po' più di chiarezza sulla politica economica, sulle posizioni anche all'interno del consiglio direttivo. Va sempre bene la Germania, sale a sorpresa a 111,2 punti dai 110,7 di marzo l'indice IFO, quello che misura la fiducia degli investitori. Lo ha reso noto l'Istituto di Monaco che lo misura, che è l'IFO, appunto, omonimo. Vanno meno bene le cose per Deutsche Bank, che sarebbe sotto una pressione crescente, questo è quello che scrive il Financial Times, da parte di alcuni dei suoi maggiori azionisti per un aumento di capitale in vista dei criteri di patrimonializzazione più rigidi che verranno imposti dalla vigilanza BCE. Si parla di una cifra intorno ai 10 miliardi di euro, secondo quello che scrivono gli analisti di Mediobanca in un rapporto dedicato al colosso tedesco. General Electric, secondo quello che scrive Bloomberg, sarebbe in trattativa avanzata per acquistare la francese Alstom, che produce tra l'altro il TGV e centrali elettriche chiavi in mano. La cifra sarebbe 13 miliardi di euro, il 25% in più rispetto all'attuale valore di borsa. L'accordo potrebbe essere annunciato la prossima settimana. E però Alstom dice che non è informata di nessuna potenziale offerta pubblica delle proprie azioni. Il gruppo riconsidera costantemente le opzioni strategiche relative ai propri business. Comunicherà i risultati annuali il 7 maggio e in quell'occasione parlerà delle prospettive delle proprie attività. Il governo francese decide di non commentare, ma segue con attenzione la vicenda e resta vigile sui posti di lavoro, sulle tecnologie e sui centri decisionali. Mentre Le Figaro precisa che le trattative sarebbero solo per le attività legate all'energia del gruppo francese. La questione del decreto IRPEF. Cosa è successo oggi di nuovo? È successo che il decreto, va bene, è arrivato ieri al Quirinale per la firma del testo, e oggi Piercarlo Padoan, il ministro dell'economia, o Padoan come vogliono chiamarlo i veneti ortodossi che ogni volta ci scrivono su questo, è andato al Colle, è salito al Quirinale per, a quanto si apprende, ulteriori chiarimenti. In realtà ci sono... Ah, ecco, è arrivata adesso la notizia che Napolitano ha firmato il decreto. Fonti del Tesoro riferiscono che col Colle si sono esaminati gli effetti delle norme. E non molto di più. Avrebbe chiesto di vedere Napolitano, il ministro dell'economia, per parlare degli effetti del decreto e per condividere valutazioni sull'impatto che questo avrà nel prossimo futuro sull'economia. E poi ci sono i tweet ai quali ormai ci siamo abituati. Prima era Matteo Renzi, adesso ha iniziato anche il ministro dell'economia. Meno tasse sulle imprese, dice, su chi crea lavoro, nessuna nuova tassa sulla ricchezza, ma un aumento del prelievo sui guadagni della ricchezza finanziaria. Poi che questa sia in un conto corrente da discutere, però insomma, questo lo lascio a voi. Tagliamo le tasse per le imprese, dice IRAP meno 10%, aumentano le tasse sulle rendite finanziarie, la finanza sia al servizio di impresa e lavoro. Quindi nessuna nuova tassa sulla ricchezza, aumentano le imposte sui guadagni della ricchezza finanziaria, le togliamo a chi crea lavoro. Che poi è vero che tecnicamente i soldi che si prendono depositando in banca, insomma, nei conti correnti o nei conti di deposito, sono ricchezza finanziaria. Però l'export italiano verso i paesi extraeuropei è calato in marzo sia sul mese precedente con un meno 1,2% che sull'anno meno 3,5%. Queste sono le stime preliminari dell'Istat. Determinante la forte caduta dell'export di energia, meno 16,5%. Crescono però le vendite di beni strumentali. Ottima notizia, più 2,9%. Tra l'altro c'erano i dati molto buoni usciti, diffusi due o tre giorni fa a proposito delle macchine utensili. Dati molto positivi anche perché hanno segnalato una ripresa, per quanto parziale, per quanto limitata, del mercato interno. La questione Alitalia. Siamo in attesa della risposta definitiva di Etihad. Se la trattativa si concluderà, il governo darà il proprio sostegno. Parola del ministro dei trasporti Maurizio Lupi, intervenuto ad un videoforum su Repubblica TV. Anziché andare dietro alle voci, ai si dice, vediamo se la trattativa, e stiamo a questo punto Alitalia ha risposto alla lettera di Etihad e stiamo aspettando la proposta definitiva di Etihad, vediamo se la trattativa tra due imprese private e vettori privati importanti si concluderà. Il governo su questo darà, come ha detto anche ieri Renzi, il proprio sostegno per la parte che il governo deve fare, e cioè per la prospettiva strategica e industriale e per la tutela dell'occupazione. Etihad è una prospettiva molto importante perché è complementare, perché finalmente riporta non al centro i nostri aeroporti e il nostro sistema del trasporto aereo, al centro di un mondo che è cambiato. Assicurato anche Lupi che la duplicazione tra il certificato di proprietà e il documento di circolazione delle automobili è inaccettabile. Ci sarà un unico documento per gli automobilisti, diminuendo quello che i cittadini devono pagare. Sentiamo. Noi questa duplicazione, le do una notizia inaccettabile, per cui uno deve avere il certificato di proprietà della macchina e il libretto di circolazione, e ovviamente è inaccettabile non solo perché ha due documenti ma perché paga due volte, 27 euro alla motorizzazione civile e 9 euro all'ACI. Questa è una cosa che le garantisco che nelle prossime settimane supereremo unificando un unico documento per gli automobilisti, ma questo non basta, diminuendo ovviamente quello che i cittadini devono pagare. E poi Dipendenti comunali romani in piazza, chiudiamo con questa notizia, contro l'ipotesi di tagli agli stipendi. Prima con una o due giorni di assemblea negli uffici e poi con una manifestazione nella capitale. Il 29 e il 30 aprile bloccheremo la città, dicono CGIL, CISL e UIL, facendo assemblee nei posti di lavoro del comune coinvolgendo 24.000 dipendenti. Bloccheremo la città. Questo è solo per i romani. Chissà se si accorgeranno della differenza. Veniamo al primo argomento. Anche ragione chi mi fa notare su Twitter, sia su Twitter sia via SMS, che quei soldi che ho messo nel conto corrente in realtà erano già tassati prima. È vero che vale anche per le azioni, non è che... Però è anche questo è un ragionamento. Ultima colata dell'alto forno della Lucchini di Piombino, 10.56 di questa mattina. Ora l'impianto, senza più minerale, continuerà a bruciare coke per una ventina di giorni fino al suo definitivo spegnimento. È, come qualcuno ha scritto in maniera suggestiva, addormentato. Tra una mezz'ora circa ci sarà la firma dell'accordo di programma che disciplina gli interventi per la riqualificazione e la riconversione di tutto il polo industriale di Piombino. È arrivato tra l'altro il presidente della regione toscana, Rossi, come previsto. Di certo spinge tutto questo anche ad una riflessione più generale sullo stato della siderurgia in Italia, visto che l'Ilva di Taranto sta lavorando a metà del suo potenziale. Qualche segnale di crisi nei mesi scorsi l'abbiamo visto anche da Terni. Si era parlato di un tavolo per la siderurgia e però era il precedente governo. Comunque io non ne ho saputo più nulla. Chiedo dettagli a Paolo Bricco, collega del Sole 24 Ore, che segue molto queste vicende. Paolo, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, innanzitutto partiamo dal tavolo, poi andremo su Piombino, andremo nei dettagli. Tu sai che fine abbia fatto? Perché qua qualcuno ci scrive, era di noce e se lo sono rubato, ma è chiaramente una battuta, però... Beh, speriamo davvero che in qualche maniera, tu hai detto oggi ultima colata Piombino, l'auspicio è che il 2014 non sia l'anno dell'ultima colata di tutta la siderurgia italiana. Di certo, di questo tavolo fantomatico non si è più saputo più nulla fino a che tre giorni fa, in un'intervista rilasciata a Matteo Meneghello del Sole 24 Ore da parte di Antonio Gozzi, imprenditore e presidente di Federacciai, lo stesso Gozzi ha ricordato la necessità di dare corso alle promesse e di fare questo benedetto tavolo intorno a cui sedersi per ragionare tutti insieme, imprese, governo e sindacati, su un settore strategico per l'economia italiana. Ricordiamo che la nostra è un'economia manifatturiera di trasformazione e questo vuol dire che la componentistica auto, gli elettrodomestici, la meccanica, i macchinari per l'imballaggio, qualunque cosa si produca in Italia, in qualche maniera ha bisogno di acciaio e ha bisogno di metalli. E quindi noi non possiamo stare in questa condizione di sospensione senza affrontare finalmente il tema di un comparto che ha bisogno di una ristrutturazione generale e anche di una scelte di politiche vere. Mi aiuti Paolo a capire lo stato dell'arte? Sì. Capacità produttiva 27 milioni di tonnellate l'anno, sì. Siamo secondi alla sola Germania, contiamo sì. Circa 40.000 occupati, però l'impatto della crisi ancora una volta è stato violentissimo, non dappertutto a dire il vero però. Sì, non dappertutto, ci sono alcuni comparti, alcuni segmenti in alcune regioni, in particolare il Veneto e la Lombardia, dove la trasformazione va bene, andiamo molto bene sugli acciai molto raffinati, sul medium tech e sull'high tech della siderurgia, anche perché in qualche maniera i nostri prodotti sono reclamati a gran voce nel Far East, nelle economie emergenti, nella stessa Germania e negli stessi Stati Uniti, andiamo meno bene nelle lavorazioni a più basso valore aggiunto. Detto questo, va ricordato che ad oggi stanno venendo al pettine, nodi ancora troppo intrecciati e aggrovigliati, come ad esempio Piombino, su cui non è stata fatta una scelta seria negli ultimi anni da parte del governo e degli enti locali, e anche quella, come quella dell'Ilva, di cui nelle prossime settimane avremo notizia su uno sviluppo positivo o uno sviluppo negativo. Se vuoi possiamo cioè che cosa deve succedere su Ilva nelle prossime settimane? Nelle prossime settimane si arriverà al dunque, nel senso che in questo momento le banche hanno un dialogo stretto con il commissario Bondi, il quale ha fatto avere loro il piano industriale elaborato da parte dei tecnici di Bondi. Lo stanno facendo analizzare dai consulenti di Roland Berger, i quali entro, credo, la fine della prossima settimana, a quanto risulta, dovrebbero in qualche maniera dare la loro valutazione. A quel punto le banche verranno allo scoperto e diranno se e in che maniera sono intenzionate a finanziare questo piano. Naturalmente, qual è il punto? Il punto è che c'è un problema di equity, cioè di proprietà. La proprietà è dei Riva. I Riva dovranno decidere se aderire o meno all'aumento di capitale che presumibilmente entro un mese e mezzo il commissario Bondi lancerà. Se i Riva non aderiranno, a quel punto, ex lege, il commissario Bondi andrà a cercare altri investitori e forse a quel punto verranno allo scoperto i franco-indiani di ArcelorMittal, che finora sono stati gli unici a muoversi in ambiente particolarmente governativo e anche con i Riva per in qualche maniera manifestare interesse. Senti, veniamo a Piombino invece. Quali sono le prospettive da questo lato? Non ho capito se è sensato questo accordo di programma, ossia se serve a qualcosa oppure no. Ma io credo che sia sensato, come tutte le misure di emergenza che servono per sanare un bubbone, ma non a curarlo alla radice, nel senso che gli accordi di programma sono un classico delle policy italiane degli ultimi 20, 25, 30 anni, vengono fatti di solito su un accrocchio di enti locali, sindacati e governo nazionale quando la situazione non è difficile, quando la situazione è drammatica. In qualche maniera arriveranno dei soldi e degli ammortizzatori sociali per gestire l'eccedenza di personale, in qualche maniera arriveranno dei soldi per riqualificare industrialmente quest'area, ma di nuovo, come già nel caso dell'Ilva, il nodo è l'assetto proprietario, cioè a dire, come nell'Ilva, nelle prossime settimane sapremo se continueranno i Riva a essere i proprietari oppure se interverranno investitori stranieri come ArcelorMittal più alcuni soggetti italiani, la Marcegaglia, se ad esempio il gruppo Marcegaglia si è fatto avanti, ha detto che ha il dossier aperto. Allo stesso modo c'è il problema di chi metterà i soldi nella ex Lucchini, nel senso che finora c'è stata una procedura di gestione di una cosa che è sostanzialmente un fallimento. Si è creato però un grosso problema a livello di gestione commissariale nel momento in cui gli enti locali hanno rifiutato radicalmente l'ipotesi che non ci potesse più essere il ciclo integrale a Piombino, ciclo integrale che tutti i gruppi imprenditoriali interessati, tranne un gruppo medio orientale nordafricano curioso, su cui ad esempio Mariano Maugeri sul Sole 24 Ore ha scritto degli articoli molto abrasivi facendo vedere la scarsa patrimonializzazione, le ombre sul management, sulla proprietà, e prometteva, soltanto questo gruppo fantomatico prometteva la conservazione del ciclo integrale. Naturalmente, qual è il punto vero? Il punto vero è che ognuno di noi desidererebbe che tutti i lavoratori della Lucchini avessero un futuro produttivo. L'ho anche detto con parole giustamente sagge e profonde il Santo Padre l'altro giorno, ma la realtà è che nessuno dei gruppi che si è fatto avanti o si era fatto avanti negli ultimi mesi ha mai ritenuto economicamente sostenibile la conservazione di tutto il ciclo, che era già la ragione per cui sia la Lucchini che i russi, gli investitori russi successivi che avevano rilevato l'azienda, lo stabilimento dai Lucchini, in qualche maniera non ce l'avevano fatta a risanare l'impianto. E quindi in ogni caso anche qui torna il nodo centrale: chi metterà i soldi per Piombino? Certo. A soldi veri, soldi di privati, capitali di rischio. Soldi di privati, ma mi sembra di capire, per chiudere Paolo, che nonostante chiunque venga a mettere i soldi, ammesso che ce li metta, comunque l'occupazione in quello stabilimento diminuirà, perché il ciclo integrale non lo vuole nessuno. Il ciclo integrale non lo vuole nessuno, non per una ragione etica, non è che gli imprenditori sono cattivi, e la ragione è squisitamente economica. Lì il ciclo integrale non è sostenibile dal punto di vista industriale e finanziario. Il problema è che naturalmente negli ultimi mesi si è creato un grandissimo cancan intorno invece alla necessità di conservare il ciclo integrale, con l'esito però che ad esempio alcune cordate di imprenditori, ad esempio Feralpi, Conduferco italiani, a un certo punto hanno detto: signori, ci chiamiamo fuori da questa situazione, perché, come dire, l'ambiente che è stato creato, diciamo, dai sindacati locali, dagli enti locali, dalla politica locale, è un ambiente insostenibile. E quindi adesso vedremo nelle prossime settimane che cosa succederà sui soldi, sugli investitori, sul cosiddetto capitale, sul cosiddetto equity. Sì. Benissimo il tavolo, benissimo gli interventi a favore dei lavoratori per riportarli nel mercato del lavoro, benissimo la riqualificazione industriale, ma chi metterà i soldi? La domanda vale per la Lucchini, come la domanda, a condizioni diverse, vale anche per l'Ilva. Ed eccoci, per chiudere il discorso sul settore siderurgico, in particolare sul gruppo Lucchini, c'è l'altro stabilimento, anche questo acquistato dai russi nel 2005, dai russi di Severstal nel 2005, l'altro altoforno, è quello di Trieste. Allora Paolo Brico, che notizie si hanno da là? Beh, su Trieste ci sono delle notizie direi non buone, direi molto buone, nel senso che si è appena conclusa la prima fase di preistruttoria fatta dal commissario Nardi, che è il commissario straordinario della Lucchini, appunto Piero Nardi, che ha dato comunicazione al mercato del fatto che non c'è soltanto Arvedi, il gruppo italiano di cui era noto l'interessamento per appunto lo stabilimento triestino, la acciaieria di Servola, ma ci sarebbe anche una cordata italo-straniera, di nuovo col meccanismo classico, gli italiani in minoranza e un partner straniero più importante. Ad ora io non ho informazioni più precise, di certo però è chiaro che questa doppia manifestazione di interesse apre degli spiragli di inaspettato ottimismo. Adesso il percorso è fissato, entreranno le due cordate in data room, cioè a dire il commissario Nardi mostrerà i dati finanziari e industriali, il check-up più approfondito possibile dello stabilimento triestino, sì. E a quel punto entro fine maggio dovrebbe essere definita l'assegnazione di questo stabilimento, quindi direi, come dire, si profila almeno un percorso Trieste meno accidentato, ecco. Meno accidentato di quello di Piombino. Grazie a Paolo Bricco del Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a te e buona serata a tutti i radioascoltatori. Vedo molti sms che stanno arrivando al 349-238-6666 sulla minaccia dei dipendenti pubblici di Roma, dei sindacati dei dipendenti pubblici di Roma: bloccheremo tutto. E non li leggo per rispetto nei confronti dei tanti bravi lavoratori che ci sono là dentro. La borsa. Alla fine la chiusura è con un guadagno dello 0,66% sul FTSE MIB, dello 0,64% sul FTSE All Share, Parigi più 0,64%, Francoforte appena sopra la parità più 0,05%, Londra più 0,29%. Eleonora Micheli, Radio Core, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buonasera. Buonasera, lo so. Buonasera. Senti una cosa, cosa dobbiamo il rialzo di oggi? Allora, le borse sono partite bene, peraltro confortate dalle trimestrali superiori alle attese di Apple e di Facebook. Poi nel corso della mattina Mario Draghi, il numero uno della BCE, ha detto che la stessa banca centrale è pronta a intervenire nel caso in cui si prospettassero scenari di deflazione. Anche alcuni dati macroeconomici sono stati positivi, come gli ordini di beni durevoli americani o l'indice IFO, quello che misura le aspettative degli imprenditori tedeschi, è risultato superiore alle attese. Quindi le borse sono state sostenute. In verità poi hanno sbandato nel pomeriggio dopo l'avvio debole di Wall Street, ma non appena anche il Dow Jones ha virato al rialzo, alla fine hanno chiuso positive. Sì, Dow Jones che guadagna lo 0,19%, e chiedo scusa agli ascoltatori per l'omissione, Nasdaq più 0,68% e Standard & Poor's 500 guadagna lo 0,36%, con l'euro che quota in questo momento 1,38,32 contro dollaro. Molto bene Saipem più 4,03%. Sì, oggi la società ha comunicato i conti del primo trimestre. In verità l'utile è nettamente diminuito rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno scorso. D'altra parte i titoli sono stati premiati con questo progresso del 4%, visto che i conti sono risultati in linea o addirittura superiori alle attese, e soprattutto i vertici dell'azienda hanno confermato i target per fine anno. Anche positive anche generali oggi. Sì, è andata bene anche generali. Poi tornando sempre semmai alla galassia Saipem, la controllante Eni fino a poco prima della chiusura era andata male, poi ha chiuso positiva più 0,8%, visto che in un primo momento aveva subito le preoccupazioni per la situazione in Kashagan, dove devono essere sostituite le condutture del giacimento e dove quindi gli analisti mettono già in conto che la produzione rimarrà nulla per quest'anno e modesta l'anno venturo. Comunque poi alla fine hanno virato al rialzo. E generale anch'essa ha fatto più 0,8%, ma comunque va sottolineato che oggi la maggior parte dei titoli hanno più volte cambiato la direzione di marcia, c'è molta volatilità, del resto anche gli scambi sono un po' più rarefatti, visto che siamo in un periodo di ponti, anche se domani in verità, nonostante la festività, la borsa sarà aperta. La borsa sarà aperta. Bene anche Banco Popolare, più 3,38%, CNA, CNH più 2,53%, Banca Popolare Emilia Romagna più 2,10%, G-Tech più 1,83%, Finmeccanica più 1,68%, Mediolanum più 1,40%, Unicredit più 1,30%, 2A più 1,28%, bene anche IUX oggi, un guadagno di un punto percentuale, così come Exor, ST Microelectronics più 0,9%, così come la Banca Popolare di Milano. Ultimi due titoli in breve con Eleonora Micheli di Radio Core, il Sole 24 Ore, sono Azimut in calo dell'1,86% e vedo negativo anche Telecom Italia, meno 0,95%. Sì, per quanto riguarda Azimut, tra l'altro è migliorata durante della seduta, cedeva anche di più, nonostante oggi avesse i riflettori puntati, visto che si è tenuta l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio, e soprattutto al termine dell'assemblea il presidente amministratore delegato del gruppo Pietro Geliani ha indicato di puntare a chiudere l'anno con una raccolta di risparmio, ovviamente ovviamente di 3 miliardi contro i 3,2 dell'anno passato, ma ovviamente la stima è stata anche prudente. L'amministratore ha messo in conto che ovviamente se nel caso in cui le borse nei prossimi mesi, anche se tutti dicono dovrebbero andare bene, registrassero comunque una correzione, allora sarebbe da mettere in conto un rallentamento anche nella raccolta del risparmio, che comunque potrebbe arrivare sopra i 3 miliardi, quindi chissà, magari segnare anche un nuovo record rispetto poi alla fine all'anno scorso. Per quanto riguarda invece Telecom, alla fine si tratta più che altro di prese di beneficio, oggi ha fatto sì meno 0,9%, d'altra parte a inizio settimana, soprattutto dopo l'assemblea che si era tenuta la settimana precedente, i titoli sono andati molto bene, è emerso che la società è sempre più una public company, tant'è che nel corso dell'assemblea, del tutto come colpo di scena, è emerso che la lista proposta da Asso Gestioni ha preso la maggioranza dei voti. Sì, no, questo l'abbiamo raccontato ampiamente nei giorni scorsi, quindi qualche, come si dice, presa di beneficio. Grazie Eleonora Micheli di Radio Core, il Sole 24 Ore. Io vi do anche gli altri titoli: Fiat in calo di 1,5%, Mediaset di 1 punto, Buzzi Unicem dello 0,84, Prismian giù di 0,5 punto, Autogrill dello 0,28, Unipolsai dello 0,2, altrettanto Monte dei Paschi, Atlantia lievemente in calo dello 0,16, così come Campari e Pirelli dello 0,08, praticamente in parità, così come Ubibanca, Snam, Mediobanca e Tenaris, tutte lievissimamente positive, più 0,35 per World Duty Free, Terna più 0,41, Enel Green Power 0,5% di guadagno, così come Tots, Enel e Moncler più 0,6%, così come Intesa San Paolo e Luxottica, Ferragamo più 0,8%, così come Eni, e ve l'abbiamo detto, gli altri titoli ve li abbiamo dati poco fa. Cambiamo argomento, parliamo di edilizia e non solo. Come sappiamo, è uno dei settori che ha sofferto di più. Vogliamo parlare, tra l'altro ci sono dei dati che sono arrivati oggi, sono quelli di Unioncamere, saldo negativo per le imprese nel primo trimestre del 2014, calo di 24.500 imprese, con un'inversione come saldo naturalmente. Dice Unioncamere lievemente meglio rispetto al 2013, quando all'appello ne mancarono oltre 31.000. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, meno 0,98% contro il meno 1,4% del primo trimestre del 2013. Per commentare l'andamento di questo settore, ma non solo, è nostro ospite Leopoldo Freri, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Buongiorno. Buongiorno. La prima domanda che le voglio fare è innanzitutto uno stato dell'arte, perché noi usciamo da 5 anni di crisi devastante, e chissà se ne siamo usciti, comunque diciamo che usciamo da 5 anni di crisi devastante che ha colpito in particolare l'edilizia. Vorrei sapere, insomma, la vostra categoria come ne esce, con quanto sono rotte le ossa, ecco, per così dire. Le ossa sono molto rotte, speriamo di esserne usciti, sicuramente non ne usciremo rapidamente, forse comincia la risalita ma sarà lunga. Gli architetti, paesaggisti, conservatori e pianificatori italiani sono 150.000, siamo circa la metà di tutti gli architetti d'Europa e questo è un primo problema. I redditi sono crollati sotto 20.000 euro all'anno e soprattutto sono stati colpiti duramente i giovani, e che sono 50% dei nostri iscritti. Per cui la condizione in questo momento è drammatica, abbiamo indici di disoccupazione mai avuti, tanti giovani che se ne vanno e non tornano. Qualche segnalino lo state cogliendo oppure no? Più che segnali reali c'è una prospettiva molto più chiara. Noi lavoriamo molto sulle prospettive anche macroeconomiche. Ci sono indicatori molto interessanti perché è passato il nuovo paradigma del riuso delle città, perché l'equazione, per semplificare, è non consumiamo più suolo, uguale riusiamo le città. E siccome il patrimonio edilizio italiano è in condizioni spaventose, ci sono circa 8 milioni di edifici sui 12 milioni di edifici che ci sono in Italia, su cui bisogna pesantemente rimettere mano, c'è un'enorme prospettiva. Il problema è attivare i meccanismi che la rendano possibile. E quali potrebbero essere? Il risparmio energetico è il driver principale perché ha una rendita economica. In Italia si consuma energia per circa 47 miliardi all'anno negli edifici. Data la condizione degli edifici si potrebbe risparmiare la metà, per cui si può contare quanto si risparmia e mettere quei soldi in investimento per rendere sicuri gli edifici. Per cui il processo ha i driver economici. Mancano ancora quelli politici. Voglio parlare di altri due driver, quantomeno potenziali. Uno è in realtà di impulso politico, che è l'ipotesi di partire con questo grande piano di riqualificazione delle scuole, di sistemazione dell'edilizia scolastica, da una parte. Dall'altra parte, evidentemente, l'Expo di Milano. Quello sulle scuole è un driver effettivo, anche quello sull'edilizia sociale, anche se per il momento non ci sono molti soldi, il cosiddetto DL Lupi. Crediamo e promuoviamo la necessità però di integrare tutte queste politiche. Il progetto sulle scuole è un progetto importante, quello sull'edilizia sociale è importante, quello sulla valorizzazione dei beni demaniali è importante. Non vanno trattati separatamente, vanno tenuti in un unico quadro. L'Expo è un'operazione importante e noi speriamo che abbia grande successo, ma sostanzialmente escluso i mondi professionali ma anche quelli dell'impresa. Non sono state coinvolte le comunità. Il progetto, salvo nella prima fase, poi è stato elaborato in stanze chiuse e il ruolo delle partecipate della regione e del comune è stato un ruolo simile a quello che in passato ha gestito queste operazioni commissariali. Stringi, gli architetti italiani sono esclusi dalle scuole. Noi siamo riusciti a ottenere almeno un concorso sul Palazzo Italia, ma nient'altro. Grazie a Leopoldo Freri, che è presidente del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Grazie a Radio 24. Nel frattempo arrivano notizie da Piombino, dove il presidente della Toscana, Enrico Rossi, dice che i soldi per la riconversione del polo sono 250 milioni, di cui 150 dalla regione, gli altri dal governo. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, oppure mi trovate su Twitter se volete, Simone Spezia. Siamo a parlare del decreto IRPEF. Poco fa Giorgio Napolitano lo ha firmato. Dopo un incontro col ministro dell'economia Piercarlo Padoan, fonti del tesoro hanno fatto sapere che il presidente voleva avere qualche dettaglio in più sugli effetti economici del decreto. Diamo per buona la versione delle fonti del tesoro. Ritrovo a poca distanza di tempo, perché ci siamo già visti per effetto giorno, Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Ciao Gianni. Buonasera a tutti. Eccoci di nuovo. Allora, nel frattempo stanno uscendo altri nuovi e diversi dettagli. Alcuni già si sapevano, altri no. Alcuni li abbiamo già ampiamente pubblicati sul Sole 24 Ore, che comunque domani pubblica una guida pratica al decreto Renzi. Quindi occhio, perché avrete tutti i chiarimenti di cui avete bisogno. Nel frattempo, dal testo definitivo emergono alcune cose interessanti. Ammontano a circa 9,6 miliardi le risorse previste in termini di cassa nel decreto per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, che si aggiungono ai 47 miliardi già stanziati. Da dire che su questa cosa, cioè ci sarebbe anche molto da dire, perché inizialmente si era parlato di 13 miliardi, poi sono diventati 8 e qualcosa, che però potrebbero diventare 5 perché le regioni sono strette, gli enti locali sono stretti dal patto di stabilità, insomma ci sono dei limiti finanziari che evidentemente non possono essere oltrepassati, e quindi anche su questo sarà da vedere. Io intanto voglio ritornare, Gianni, sul tema della tassazione sulle rendite finanziarie, perché i dati che avete pubblicato oggi sono molto chiari. In realtà il 44% delle coperture arriva dalla spending, ossia dal taglio della spesa, e l'altro 56% nient'altro che tasse. Tasse di cui la innalzamento dell'aliquota dal 20 al 26% sulle rendite finanziarie rappresenta un po' il cuore dell'intervento. Quando si parla di rendite finanziarie, però, noi avvertiamo sempre, diciamo, si hanno in mente delle cose, ma poi nella realtà incide su una serie di situazioni molto più ampia, e tra le rendite finanziarie ci sono anche gli interessi pagati dalle banche sui conti correnti, i depositi bancari vari e così via. Quei pochi, perché qualcuno ci dice sì, ma gli interessi sui conti correnti, innanzitutto dipende da quanto hai depositato, prima cosa, e seconda cosa dipende se è un conto di deposito, tanto per fare un esempio. Esattamente, è vero che sono pochi, ma già che sono pochi sono anche molto tassati, al punto che è la relazione tecnica a dirlo, quindi il documento più ufficiale possibile, solo dai conti correnti e dai depositi bancari arriveranno 755 milioni di euro l'anno prossimo, il che vuol dire che appunto è la prova matematica del fatto che l'innalzamento delle aliquote sulle rendite finanziarie ha una platea estremamente ampia di riferimento. L'aliquota, dicevamo, si alza dal 20 al 26% e questo si dice è la media europea. Noi interveniamo però per effetto di provvedimenti precedenti, seppur molto recenti, anche con altri tipi di tassazione di bolli eccetera, che portano sulla gran parte delle rendite una tassazione più alta rispetto alla media europea. In più, fuori dalle banche, ma per... Fino a che livelli, Gianni? Noi calcoliamo intorno al 33-34%, un terzo sostanzialmente. In più questa cosa ha anche effetti fuori dai conti correnti, un aspetto, diciamo, che può apparire meno popolare ma che in realtà è molto interessante sugli azionisti. Se io sono un piccolo azionista di una impresa qualsiasi quotata in borsa, pago l'imposta appunto maggiorata al 26%. Se io invece ho una partecipazione qualificata, cioè sono uno dei principali azionisti o l'azionista di riferimento della società, è tutta una tassazione diversa, e alla fine il confronto fra le due mostra che i piccoli azionisti con questa nuova normativa vengono penalizzati rispetto a chi è titolare, diciamo così, di partecipazioni qualificate, quindi molto ampie. Senti Gianni, allora domani quello che forse non vi ho chiarito bene è che il Sole 24 Ore parte con una serie di guide, nel senso che domani sarà specificatamente sul bonus in busta paga, sabato su appunto la tassazione delle rendite finanziarie, lunedì l'IRAP, martedì il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, mercoledì la fattura elettronica, giovedì i tagli alle spese e le misure su comuni, regioni e pubbliche amministrazioni. Mi vorrei soffermare su domani, Gianni, perché c'è un tema degli adempimenti, per così dire, economici a carico del datore di lavoro, che interessa non solamente gli imprenditori, ma anche, per esempio, i datori di lavoro delle colf e delle badanti. Sì, e poi interessa anche i lavoratori. Il tema è questo: 80 euro per tutti, uno dice molto semplice, non c'è nulla di più semplice da calcolare. Invece, naturalmente, non è così, perché il problema principale è legato al fatto che il bonus di 80 euro va calcolato in ragione d'anno, cioè in rapporto al tempo lavorato nell'anno dal lavoratore. Per i contratti a tempo indeterminato che erano già attivi non c'è nessun problema, il bonus è intero, ma per le tantissime fattispecie, per esempio di part time con due datori di lavoro diversi, due part time che si sommano, o di contratti a termine con interruzioni, magari anche senza interruzioni ma con due datori di lavoro diversi, ognuno deve calcolare il suo pezzo, e soprattutto soprattutto in molti di queste fattispecie il contribuente deve dire al datore 1 quello che prende dal datore 2, o in caso di successione temporale deve dire al datore 2: guarda che a me spetta un altro pezzo di bonus perché un pezzo, solo un pezzo, mi è stato dato dal datore 1. Tutte le fattispecie, che sono tantissime, perché le combinazioni di contratti flessibili, di cambi di contratto sono tantissime, vengono illustrate domani. Brutalmente, ma il bonus lo deve sganciare il datore di lavoro, questa è la sostanza. Il bonus lo deve sganciare il datore di lavoro, lo prende dal monte ritenute, oppure quando il monte ritenute non basta lo prende dai contributi. Lo deve sganciare, lo deve calcolare e lo deve erogare in via automatica, quindi appunto il contribuente non avrebbe nulla da fare. Però se è in una delle tante situazioni particolari, alcune delle quali ho citato poco fa, anche il contribuente deve come dire, essere parte attiva del procedimento e comunicare il tutto, anche perché c'è il rischio in qualche caso che poi te lo richiedano indietro se sbagli qualcosa, il che è pessimo. E c'è chi ci fa notare, ed effettivamente lo ricordo anch'io, ce lo fanno notare via SMS al 349-238-6666, che non più tardi di un mese e mezzo fa il ministro dell'economia, che era sempre lo stesso, Padoan, alla domanda: oltre ai bot, dalla tassa sulle rendite finanziarie, la nuova tassazione sulle rendite finanziarie, saranno esentati anche i conti correnti e i conti di deposito? Risposta: sì. Ci chiede un ascoltatore invece, perché ne accennai poco fa, la fattura elettronica, di che si tratta? La fattura elettronica è lo strumento con cui le pubbliche amministrazioni eserciteranno i loro pagamenti, viene già prevista da precedenti provvedimenti, viene accelerata dal decreto Renzi, e sostanzialmente anche negli enti locali, che sono poi in gran parte, diciamo così, l'interfaccia delle aziende fornitrici, dovrà partire tutto dal marzo del 2015. Questo serve a rendere tracciabili integralmente i pagamenti e aiutare i fornitori, perché in caso di inceppamento del pagamento, il pagamento con fattura elettronica è tutto certificato, può essere scontato in banca e così via, e soprattutto è più facile, diciamo così, imporre alla pubblica amministrazione di rispettare i tempi di pagamento ambiziosi, o per meglio dire civili, che vengono imposti dall'evoluzione della normativa e anche da questo decreto Renzi, perché per esempio il decreto prevede che chi mostrerà di avere tempi di pagamento più lunghi rispetto ai 90 giorni quest'anno, 60 giorni l'anno prossimo, comincerà da subito ad avere delle penalizzazioni, cioè dei tagli ulteriori e aggiuntivi rispetto agli altri, e poi dall'anno prossimo non potrà più effettuare assunzioni e neanche rinnovare i contratti a termine, che è la sanzione principe, diciamo così, per le pubbliche amministrazioni, ed è finalmente un incentivo reale, o meglio un disincentivo reale verso certe pessime abitudini, perché finora veniva detto che i tempi di pagamento saranno valutati ai fini della qualità e del merito per la retribuzione di risultato dei dirigenti, bla bla bla, cioè roba che non aveva nessun impatto. Invece il decreto ti dice: se tu paghi, se a fine anno si mostra che tu paghi in tempi medi superiori ai 90 giorni quest'anno e ai 60 l'anno prossimo, non puoi più assumere nessuno e non puoi più rinnovare i contratti a termine che hai in essere. È una sanzione un po' più concreta. Un po' più concreta, naturalmente. Ringrazio Luca che dice che con tutte le sostituzioni che faccio, altro che 80 euro. Adesso non esageriamo. I BTP rimangono uguali. A proposito di tassazione sulle rendite, ci chiede un ascoltatore, l'ultima domanda che ti faccio. Dice: ma le pensioni integrative, beh, le pensioni integrative no, però i fondi integrativi che fanno investimenti sul mercato, immagino che vengano semplicemente assoggettati alla nuova tassazione sulle rendite, molto semplicemente. Esattamente così, la pensione integrativa no, perché non è poi una rendita finanziaria, ma è un'erogazione a seguito di un contratto e reddito, bla bla bla, quindi entra tutto in un'altra, in un altro binario, mentre naturalmente i fondi pensione e tutti i soggetti che fanno investimenti finanziari, da Simone Spezia grazie alle sostituzioni ai grandi fondi di investimento che forse investiranno un po' di più di lui, comunque tutti saranno soggetti a questa tassazione lineare del 26% più i bolli che dicevamo prima. E naturalmente spesso accade che almeno una quota di questa tassazione ulteriore, quando è fatta dai soggetti, diciamo così, professionali, poi si scarichi sulla varia catena del mercato, perché non c'è assolutamente nessun modo per impedirlo. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti e per questi chiarimenti. Chi ci scrive un sacco di domande, un sacco di richieste di chiarimenti su questo decreto IRPEF, io non posso raccomandare di comprare il Sole 24 Ore a partire da domani e per i prossimi giorni, oltre a consigliarvi di comprarlo sempre, però da domani parte la guida pratica, quindi potete trovare là tutti i dettagli. Poi sicuramente ci torneremo nelle nostre trasmissioni, quindi non vi preoccupate, insomma. Poi bisogna vedere se, tra l'altro, questo decreto passerà indenne dal Parlamento, se considerate che la ministra dell'Istruzione e segretaria di Scelta Civica, Stefania Giannini, durante un'audizione in Commissione Cultura alla Camera, dice che il decreto è una battaglia non persa, non è una vittoria, quindi forse anche qualche modifica là arriverà. Oh, visto che siamo a ridosso di un altro weekend lungo e poi di un ponte, Giorgio Palmucci, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, buongiorno. Buonasera. Buongiorno a lei, buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, come vanno le cose? Diciamo che in questo periodo è un periodo positivo per chi lavora nel nostro settore, nel senso che essendoci questi tre punti primaverili tra Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, una ventata insomma di ottimismo, noi abbiamo cercato di vederla in un momento comunque se è sempre complesso e sempre complicato. Sì, perché il calendario aiuta chiaramente, perché quando ti ritrovi un'infilata di questo genere, un 25 aprile di venerdì, un 1 maggio di giovedì, no? Ma decisamente rispetto all'anno scorso il calendario ha aiutato, anche se per esempio abbiamo avuto i giorni di Pasqua nei quali invece abbiamo sofferto per io chiamo un po' di terrorismo meteorologico, che poi in realtà non ha visto un clima così pessimo durante le festività pasquali. Allora, il settore nel complesso, dai dati che avete anche diffuso, segnala un trend, come dire, di quantomeno di recupero, mettiamola così, rispetto ad anni piuttosto bui. Eh sì, praticamente possiamo dire che da fine dicembre, quindi da fine 2013, inizio 2014, finalmente insomma c'è stata questa inversione di tendenza, che dopo 5 anni in continuo calo si è vista, speriamo, la luce in fondo al tunnel, considerando che soprattutto grazie alle presenze di turisti stranieri, comunque la presenza di stranieri rispetto a quelle che sono le presenze degli italiani. E anche qua, come i vostri colleghi che fanno manifattura e si affidano all'export, voi naturalmente vi affidate ai turisti stranieri, perché sono quelli che in questi anni evidentemente hanno avuto i soldi, hanno avuto di che spendere. Senta, io vorrei capire innanzitutto, anche come imprenditore, come rappresentante di un'associazione imprenditoriale, come giudica il decreto uscito dal governo la settimana scorsa? Ma guardi, io ritengo che la cosa importante di cui abbiamo bisogno è di vedere che una ripresa dell'economia e tutto quello che può riguardare anche il nostro mondo, il mondo del turismo, che rappresenta comunque il 10% del PIL e il 9% della forza lavoro, è assolutamente importante a dare una possibilità anche economica in più ai nostri agli italiani, che possano spendere un pochettino di più anche per visitare il nostro paese, per fare un po' di vacanze. Questi 80 euro vi fanno ben sperare, in sostanza. Insomma, è una speranza che quindi anche l'italiano possa ricominciare a spendere anche in vacanze. Senta, 2014 nel complesso, che cosa vi aspettate? Ma guardi, io ritengo che il 2014 non vedrà grandissime differenze comunque rispetto al 2013. Noi quello che auspichiamo e che speriamo e che dalle analisi possiamo dire è il poter vedere comunque che non ci saranno dei nuovi cali, di nuovo una marcia indietro, in attesa poi di quello che secondo noi è un momento importantissimo, che sarà il 2015 con Expo. Grazie Giorgio Palmucci, presidente dell'Associazione Italiana di Confindustria Alberghi. Nasce nel 2012, rappresenta di più di 2500 aziende del settore, 170.000 camere, 70.000 dipendenti, fatturato sopra i 5 miliardi di euro. Ed è tutto anche per Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, per chi parte, insomma, buon fine settimana lungo. Noi ci risentiamo lunedì con Effetto Giorno. Radio 24. La passione si sente.